ben sentiti, ben ascoltati da questa parte il Grode. Il mattone. E beh, Grode, come stai? Mariane. So che dopo un paio di panini al gorgonzola e un paio di bicchieri di Angelo Ruiu, non so se conoscete la sostanza, vero? Diciamo che è passata anche la cervicale. Lo so cos'è quello? Quello è l'effetto vino, che ieri mi prendevi per il culo tutta la sera. Non ti prendevo in giro, ero piacevolmente geloso. Ah ecco, beh, ogni tanto una volta, anzi no, forse no, facciamo tre volte all'anno che divento un po' allegro, mi stavi colpevolizzando. Intanto bisogna drammatizzare, dai, per non uscirci fuori di testa. Oh, mi sembra che hai interpretato male, anzi, il mio modo di vedere le cose, ero, ti ripeto, piacevolmente non geloso, ma invidioso della tua condizione, dove te la stavi divertendo allegramente con la famigliola, assolutamente. Non c'è problema, anche la mia famiglia potrebbe essere anche la tua. È un'offerta questa. È un'offerta con la forbice o la pinza che te lo taglio. Vabbè, perdonatemi se sono entrato senza fare il QRX e quindi di conseguenza non so chi c'è in ruota. Riprendi, Claudio. Certo, ben ascoltato. No, non c'è nessuno. Io stavo decidendo appunto con cena se andare al Porto Torres a prendere una boccata d'aria, a mangiare un gelato, invece quando sono andato a pensare a piattare sini, due presi di gelati ci avevamo già trappesso. Anche perché senza, ormai ho perso l'orientamento e quindi non mi si è ricordato che domani è lunedì, non è domenica. Perciò mi ero fatto presto anche io e non. Per rientrare tardi, io non sono sempre rientrato tardi, una notte e mezza. Oggi sono stanco, quindi ci riposiamo, ci andiamo a casa. Non so se c'è benito uno, dottore, se c'è qualcosa. Caparugge. Caparugge, sì, secondo me non è estate questa qua. Io ti dico la verità, ho una piccola casa che affitto al mare, meno male. Ti ripeto, non l'affitto durante l'estate, ma cioè durante l'estate nel senso non prendo le prenotazioni, sennò sarebbero andati davvero male, perché c'ho gli inquilini che hanno un muso che la metà basta. Perché questa non è estate, cioè non è temperatura estiva minimamente, non viene voglia neanche di uscire, assolutamente, perché cioè, stiamo andando da un estremo all'altro, è troppo freddo. Ma ho sentito, tra l'altro mi ha fatto piacere risentire Daniele stasera, ha risolto poi quel problema del Monkey Game. Quando c'è Dio Claudio in radio non c'è nessun problema. Conosco perfettamente Vita Miracoli del 140, quindi so quali sono i suoi difetti quando rimane ferro. Cincia la low glider e quindi devi darne una pulitina avanti e indietro, poi ha riattaccato le MC60 ed era una bomba. Sono radio molto molto particolari che bisogna stare molto molto attenti. Complessità e nella loro bellezza. Grazie, perché? Che hanno quegli slide? Troppo piccola per poi alla fine andare a regolare delle cose di vitale importanza e poi alla fine i difetti si vedono, perché devi stare proprio lì a dargli colpettini per mandarle avanti. Comunque una signora radio che dà davvero soddisfazioni e ogni buon italiano dovrebbe averne una. Attento, scusate un attimo, buonasera, Dio qualche che è entrato, di suo quarto. Anto, stai leggermente scorreggiando con quella modulazione. Io? No, tutti Dio qualche, no, tu sei sempre perfetto. Antonio, sembra che stia leggermente innescando, ogni volta che modulo sento un Tu mi sei bocchendo invece, Antonio, sono in cuffia, mi sei bocchendo, ma perché gridi? Non sto gridando, Antonio, andiamo bene. Claudio, non sto gridandolo. C'è un po' cammella col microfono, è allucinante, sì. Già dicono cose a me che la radio è sempre a manetta, ma questa è proprio la timbrica di queste radio, ma fate paura con questi microfoni della Svettaggini, stanno andando veramente alla grande. Ma secondo me sono sempre gli abbinamenti, anche se sentire il suo da paura, veramente molto bello. Faccio un bel grossa cemina, Antone. Un bel grossa, proprio da combattimento. E quello adesso guarda un pochettino, adesso così ce l'ho, la verità ce l'ho a tre. Adesso se lo metto a questa distorcia, è vero? È più bruttina, no, non ce l'ha per là, ce l'ho, no, era una battuta che mi sembra prendermi. Poi sono in cuffie e ti sento un bel forte, infatti meglio tu. Le ho messe così proprio per ascoltare meglio le modulazioni, ma la tua è troppo alta. Ciao Antonio Falchè, buonasera, ben ascoltato. La sosa così, Antonio, non ti preoccupare, non fare nulla. Cosa stavo dicendo? Sì, qualcuno ce l'aveva la buona sassarese, sotto il mio consiglio, sotto le mie, qualcuno più di uno, e poi se li hanno venduti, no? Io quelli che ho dato sono tutti perfettamente funzionanti, mi piace molto la tua modulazione, con quell'abbinamento che hai fatto, anche lì abbiamo cercato insomma di fare il nostro meglio, mi piace anche molto quella di Luca, nonostante non usiate l'MC60, c'è un abbinamento microfonico molto molto bello, mi piace, non è una cosa che non va bene, dico va bene, insomma siamo tutti a livello buono, dai, con questo radio, non ci possiamo lamentare. Tu quella da combattimento lo sai qual è, no? La 48, quella sul canale 45, fra un po' dice mamma perdono, sto aspettando l'amplificatore più grosso che ho mai avuto, quella 27. L'amplificatore ne ho, già li ho visti Antonello, anche abbastanza grossi, però sono HF, non li voglio adoperare per la 27. Un linearetto un po' insomma piccolo ma sincero, che adesso è collegato alla 48, ma fra un po' li attacchiamo quello grosso. Sto aspettando che arrivi già in ordinato. E poi vediamo se il 45 come si comporta, se posso dire dove sei, negli Appennini, sto passando sotto l'Austria, lì vicino. Infatti avete fatto un casino, il 3 dell'Ave Maria stasera sul canale 10 che la metà passava, proprio a spacca a casse. No, io non lo voglio mai usare sul canale 10, ma c'era Luigi con Massimiliano che stavano regolando loro, allora ho attaccato quello e ho detto io spostatemi sul 45 che facciamo le prove così mi regolate anche il mio, e infatti mi sono spostato perché non fa troppo casino, una cosa allucinante, però sono belle radio, veramente, sono belle radio, una passione proprio a fare quel tipo di modulazione, però fuori dalla normalità, capito, perché nella normalità certo questo non ti posso attaccare dalla 48, le bestemmiate perché vi faccio solo, e quindi si usa nei modi che si deve usare, insomma, poi ognuno lo usa come le piace, tanto. La gente è prepotente, è abituata a fare quello che vuole, perciò continuerà sempre a farlo. A noi piace essere al passo con gli altri, anche a volte, no? Avanti, Falchetto, facciamo riprendere lui, ti si è addormentato, si è andato a vedere di turno. No, la verità sta guardando un pezzo di televisore, niente di che, e appa. E così quelli sono da combattimento, perché è meglio che funzioni con la pandarissima, no, guai. No, ne ci sono, no, assolutamente. Lui? Lo so, purtroppo lo so, perché l'ho già avuto tanti anni fa, e quindi so che io ce l'ho sempre avuto in macchina, poi alla fine l'ho tolto e l'avevo messo a casa, qualche passaggio poi l'ho tolto, buttato dentro la macchina. Adesso invece ho visto che sul 45 c'è traffico, allora l'abbiamo rimesso, facciamo due chiacchiere con i grandi modulatori puro sangue. Va bene, allora Antonè, ne hai fatto di questi collegamenti o non ne hai fatto? Sì, li ho fatti, l'ho rifatti e non funziona. Già. Cosa? Cosa succede? L'ho fatto collegamenti, l'ho messo in tira. nei pezzi che mi ha dato, che allora vado a riempire lo spionto del baracchino, il piede maschio, il barone povere, e comincia a sentire tutto il correme, le modulazioni che modula. Dal momento in cui io vado ad avvitare la parte che è la massa, l'apparato, no, ad avvitare, non si sente più niente, sta zitto. Ho provato, controllato, non ci sono riuscito. La, aspetta, scusami un attimino. Una cosa che non è, tu gli hai detto perfettamente come si costruisce un dipolo, ti sei dimenticato però di spiegargli che non lo può mettere a fianco a una ringhiera, a 5 cm dalla ringhiera, perché non ottiene il risultato che ha ottenuto. Era troppo vicino, lui non ha la serrata che hai tu. Il dipolo perfettamente ricostruito bene, perché quindi praticamente arrivato alla fine, quindi. Se tu avviti il piede non si sente, però se ci sia qualche piede a massa, quindi qualche filino di carter è stato toccando col polo caldo, forse come hai salvato il centrale a chiusura dei due bracci, sicuramente. Quindi devi andare, la prima cosa che fare devi andare a controllare lì. Se le calze le hai isolate come ti ho fatto vedere io con un altro prima di saldarle uno con l'altro, in modo che il polo caldo poi non vada a toccare sul piantone di quello che è il piede femmina, il 219 femmina, perché se va a toccare solo un filino, quando tu vai a inserire ed avvitare il piede, ti va in cortocircuito, non senti niente. Quindi la prima cosa che devi fare è andare a rivedere lì. Dopodiché ti ho spiegato che con il polo filare va in alto possibile, 4 metri da terra, non deve avere ostacoli vicino, cazzo, tu me lo attacchi alla ringhiera. Allora io ho controllato tutto, ho isolato con la gomma vulcanizzante prima di saldare. Poi cosa ho fatto? Con la corda che mi hai dato l'ho messo in delle gaffe che usiamo giustamente per stendere i panni, no? Dunque fai della ringhiera visti, cosa ne so, 10-15 cm, non di più, non è attaccata alla ringhiera, attenzione, ho fatto questo procedimento qua. Vabbè, bisogna di 10 cm, ma scusa, la tua antenna non è sopra il tetto, fammi capire, dove ce l'hai nel poggio l'antenna? Ti ho detto, dall'antenna, tu hai l'antenna sopra il tetto, sali e li attacchi, il dipolo come ha fatto Sandro, Sandro l'ha prodotto a casa mia, col dipolo arriva a Santiago, 9, che ripeto ancora una volta, c'è qualcuno da Sassari che arriva a 8, capito, a casa mia, quindi lui arriva a 9 da Porto Torres. Tu sei di fronte a me, il minimo dovresti arrivare qualche segnale in meno rispetto alla verticale, però devi montare come ti ho detto io, sali sul tetto, le fai una calata quasi verticale, quasi 45 gradi oltre il verticale, quindi 80 gradi dopo l'orizzontale, per farci capire, e lui funziona perfettamente, non lo puoi attaccare così come l'hai attaccato tu Antonio, non va bene. No, la verità, sul tetto sono salito, l'ho attaccato lì, ho in quello spazio, c'era la verità, ho fatto questo procedimento, il corpo l'ho controllato e tutto quanto, niente da fare. Adesso se la faccio domani provo direttamente a salire sul tetto, tanto tutto pronto, lo stendo lì sopra e vediamo cosa ne c'è fuori. L'idea del dipolo d'acqua, ti è piaciuta o no, Ocla? O era una gaggata? No, di luscio, c'è Antonio che si sta sperimentando in un sacco, vedi, di passaggi, in questo di polo all'acqua, queste cose, sono cose molto importanti. Tu devi ascoltare il tuo Claudio, devi piattarlo, come ti ho detto io, assettare la ringhiera, quello è un induttore, non puoi tu attaccarlo ad un ferro vecchio, capito? Quello deve rimanere alto da terra e con la polarizzazione, una in alto e una in basso, perché giustamente è direttivo. Se tu lo attacchi alla ringhiera, già c'è il ferro che non lo fa irradiare, in più ai 10 cm dalla ringhiera devi andare, lo devi attaccare sopra il tetto e lo metti quasi quasi come ti ho detto io, un 45 gradi, praticamente solo tutti e due i bracci, non a invertito, un 45 gradi a braccio intero. Ok, quindi un pezzo di nylon dall'isolatore lo colleghi all'antenna, al tubo all'antenna, e l'altro pezzo lo puoi collegare a 10-20 faccio questa prova qua, va bene. E poi cosa ho fatto di questa antenna d'acqua? Proprio non l'ho sentita. Antenna d'acqua l'ha trovata Antonio Grode. Ha preso una pompa, ha messo un PL da una parte, un PL dall'altra, gli ha attaccato il cavo e l'ha riempita l'acqua. Funzionato. Beh, l'acqua può fare anche l'antenna, sai. Una pompa mette, la riempi d'acqua, due PL e poi gli attacca il cavo. Non è più nemmeno come stavo pensando al sommergibile che comunica, e poi parti dal presupposto che più la, come si dice, la sostanza in cui tu irradi le onde è compatta e più è veloce sicuramente l'onda di trasmissione. Quindi nell'atmosfera, diciamo, l'onda ha la velocità di 300.000 km al secondo, sicuramente nell'acqua, che è un fluido più denso, è sicuramente superiore. Quindi stavo pensando, allora ho preso una scatoletta, ho attaccato un PL femmina, da lì ho fatto uscire due cavetti, polo caldo e polo freddo, dopodiché ho preso due tubi, quelli per il vino, che sicuramente ne avrai, Antonello Baracco, li riempi d'acqua, li tappi da una parte chiaramente, li riempi d'acqua e dopodiché ci incastri dentro un filo a toccare l'acqua, tappi dall'altra parte e lo usi pari come hai usato il dipolo, uguale, nella stessa maniera lo sistema. E ho capito che comunque anche l'acqua tendeva a irradiare tranquillamente senza nessun problema. Stazionarie. Lo senza stazionarie non esiste, o meglio, è difficile da realizzare. Tu la cosa che ti devi comprare, che non hai ancora, su cui non hai ancora investito, è un buon accordatore. Quello sì, piano piano, adesso vediamo come vanno le cose. Aspetta che c'è zio Falchetto, quel vicino che l'ha fatto. Vai zio Falchetto. Ehi, andava bene, già va bene. Riprendete, adesso un ascolto, Bianchi, tu qualche formula, no? E cosa ti dico, c'ho questi cavalli qua, sento la fabuella. C'ho questi cavalli da corsa, oggi qua le porre, ma lo senti? Un casino. A sentire non mi sento, ma qui si vede abbastanza tutto illuminato la situazione da casa. Ma perché? Ehi, dimmi qua. Ma meraviglio di te, cioè sei lì alla finestra, tu che sei uno dei più cavalli puro sangue che abbiamo, modulatori di Sardegna, fai pure tu a correre. Vendi un po' di roba ai piccolini. E di cosa ci vuole il parco macchine? Guarda, io le macchine ne ho due, ma sono le mie, le altre sono tutte dell'azienda. Anzi, una tra l'altro la stiamo usando per quell'altro sistema che tu sai, capito? C'è lui in rotazione. No, tra quella di mia moglie, quella di mia figlia e quella mia, più quella azienda di 5 macchine a casa. Io che già hai capito, stai parlando delle macchine di casa tua, già hai capito. Ah, ho capito, è una mazza di nevoia. A volte devo stare attento a quello che mi dici tu. Intanto sicuramente, scusa, quanto la sberla che ti costa questo nuovo, sicuramente te ne puoi permettere anche il tre volte tanto, però recupera un po' di soldini vendendo quello che non usi. Ma sai, io sai quante volte quanta gente viene e dice, guarda questa roba, sono appassionato io. Ma poi do una cosa, guarda, ne ho versato uno quest'anno io. Ne ho versato una di radio, che era una cosa favolosa, vieni qua a rimarla. E sai che mi sono pentito? Mi sono pentito perché non c'era tutta questa necessità, bastava aspettare, per dire, un mese, anziché versare la radio avrei dato i quattrini. Però veramente a fretta di chiudere l'operazione e ho dovuto versare quella. Capito? Mi ha dato un po'. Me ne duole il cuore quando no, ecco, giovane. Io quando ho delle cose, anche se non le uso, le posso prestare, per carità, non c'è problema, ma le posso anche scambiare. Però l'importante è che la veda oppure ce l'abbia fra un mese, fra un anno, fra 6 mesi, che mi ritorni a casa. Però vendere sono un po' stantio, ma infatti te lo sta dicendo uno, poi che adesso si è preso un altro K e se lo tiene, perché sono fatto così. Io l'avevo preso in previsione poi di rivenderlo un po' di più per l'acquisto di un 4,40, però guarda, se lo prende Antonello glielo do allo stesso prezzo che l'ho pagato, se no me lo tengo molto volentieri. Però io ti stavo dicendo più che altro di vendere un po' di scarpette, perché è già arrivato te l'apparato. Domani mi arriverà. No, sapere con che condizioni è. No, tu. È ottimo. Però ti ripeto, poi se mi gira me lo tengo, ma perché mi conosco, capito? Non perché ho fatto l'affare, però perché mi piace l'apparato e mi piacerebbe averne uno in riservo. A prescindere da quello te lo presto. Ma stavo dicendo, qualche scarpettina mi interesserebbe a poi comprarla. Qualche scarpettina, io ho quelli a testa, però tu moduli in una frequenza come questa. Le scarpette che ci vivono non sono scarpette, ma sono scarponi, perché il più piccolo pesa 25 kg, Antonio ce l'ha visto, il grande, quello della Iaesio io penso che passi 30, perché ogni volta che lo sposto me ne scende l'ernia. Sono tutti amplificatori che usano anche nella 27, perché tu quando sei venuto a te l'ho visto, io ho una sezione amatoriale, che è quella dove sono adesso di fronte, quando io che giro la sedia mi sposto la sezione CB, e lì c'è un lineare per ogni baracchino, non è che è molto diversa la cosa, capito? Sono più piccoli, ma c'è un amplificatore per ogni baracchino, sono quelli che uso, sia sulla LAN 48, sulla KB23, sull'MS200, sul SEAS, sul Zodiac, cioè tu qua non sei venuto per poterti rendere conto come sono io. E quindi lì, anche lì c'è un lineare, anche se piccolo, però per ogni baracchino. Ora, siccome gli ho ordinato uno grande di lineare, proprio per collegare alla LAN 48, l'altro, che tra l'altro non è il mio, il BV131 me l'hanno prestato, quello tornerà al padrone. L'ala 48 andrà col lineare grosso e la faietta KB23 rimane col 747, capito? Non ci sono, sono fatto così, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Beh, Antonello glielo ho già detto anche io, che se lui deve avere come a lui, come Antonio, ma Antonio sotto mano ce l'ha già, anzi, se qualcuno ha necessità di una radio che ha un problema, vabbè, proprio parliamo di persona, me lo dite, e ognuna in vendita, non a pezzi di cambio, però no, da mettere a posto, più grande del 140. E comunque, anche Antonio ce l'ha uno sotto mano, sta aspettando il tempo buono per mettere la zampata sopra. Siamo tutti in cerca di queste radio per far sì che siano delle radio competenti e che ci diano delle soddisfazioni, quindi anche Antonio glielo ho detto, anziché prenderti quel cacchio di Galaxy che ti hai preso, che per carità di Dio non lo sto rispettando perché l'ho avuto anche io, una signora radio esteticamente molto bella ma funziona zero, con quella cifra aggiungeva 100 euro e si comprava un bel 140, tutto lì. Scusate un attimino il bianco permesso e l'ascolto, anzi, quel Rex. Ehi, avanti, Falche. Positivo. Adesso ho passato un momento, come sto uscendo? Bellissimo, ma si intende uno che va bene, ma cos'era? Devo dare il visore. cavate non lo fate. E che cavo delle cavate a grossa, insomma, a far culo a rete. Non lo vanno a fare così alle 12:30 di notte, fammi capire. Ma la scena, so che dopo devo lo parlare di un giorno, no, di notte lo parla, che se lo sento io questo che sta parlando al megafono, voi già dite avanti tutta, mettetela tutta, mettila tutta. È un casino, Così, e beh, Antonio, aiuto, facci sognare, Antonello. Facci sognare, niente, adesso vedo un po'. Ripeto, se riesco a trovare qualcuno che me l'hanno chiesto, però adesso viene molto di più perché lo sto risistemando, l'apparato. Riesco a prendere un buon prezzo, vedo un po' di beccare quell'apparato lì e tutto lì. Perché lo sto rimettendo a posto, lo sto facendo rinascere da zero. L'apparato, il Galaxy, l'ho portato da Vittorio. Giove, cos'è, che me lo sta, diciamo, non una revisionata, adesso ce l'ha buono minimo 3 settimane, c'è un sacco di lavoro, dunque dice secondo come andava, se andava bene questa settimana era pronto, ti sta mettendo le mani addosso per revisionarlo, capito, per farlo trovare perfetto da fabbrica, ma non c'era nessun problema, questi ce ne sono quanti ne voglio. E dunque come sistemato, poi vedrò qualcuno che lo vuole a un buon prezzo perché lo sto facendo tornare dopo di zecca. E poi con quei soldi lì beccherò quell'altro apparato che mi stavi dicendo tu. Cifra che l'hai comprato c'è di male, non è che sto dicendo che non c'è di male, perché anch'io ne ho fatto avere uno ad una persona, una bellissima radio, una verità. C'è qualcuno che lo va di più, ma il prezzo suo è quello che l'hai pagato tu. E va molto bene come andati, non c'è un problema. C'è l'abbinamento microfonico sempre da fare, vedi? Il Galaxy riceve molto bene il Turner P3, ma io lo faccio funzionare benissimo. E poi il Saletta, quello che sto usando Massimiliano, ve l'ho fatto io. Quello è un signor microfono per il Galaxy. L'MB+4, l'MB5 le fanno una modulazione buona, però non è al top, non è al top. Gli unici microfoni che vanno bene al Galaxy sono il Saletta e il Turner P3, infatti lui ce l'ha sul Galaxy quello suo e sul Tornado e c'ha una modulazione allucinante, molto molto forte. Quindi poi quando l'avrei ritirato proviamo anche in saletta, vediamo cosa ne salta fuori, non ci sono problemi. Capo a capo, va bene, però il consiglio che io ti do, se fai fuori il Galaxy prenditi un bel 140, non sia 80, è uguale a 140 con la scheda di 6 metri, anche se non la usi. Te lo porti qua, vediamo una sistematina, si memorizzano tutti i canali, e tu sei al top, non ha nessun problema, vero Rocchi? Bella voglia, la voglia, aia, vai, va a culo, aia, sì, è così, ecco, sì, mi uso. Con la speranza che non intuppi, come ti ho fatto con l'amico di zio Falchetto, ti viene dato una radio, andare a attendirla, non funziona. Diciamo che io non la trovo, bisogna, diciamo, avere la garanzia, e quello è il problema, che qualcuno l'ha trattata bene e non gli abbiamo messo le mani addosso, capito cosa voglio dire? Che nessuno si è mai permesso di aprire il tappo e stare lì a cianfrugliare una situazione, quello, diciamo, è un problema, e che te lo garantisce una cosa del genere? Io, che se parlavi prima, anziché darla ad un'altra persona, io quando ti ho comprato il Galaxy io ti mettevo in contatto forse con la stessa persona prima e tu avresti preso un bel 70 per dire a 100 in più, quello è il problema. Forse io non so niente, non mi permetto di dire fare così, fare colà. Se so uno che mi chiama al telefono che mi ha chiamato l'altro giorno, uno mi ha detto sto cercando un bel 140. ce l'hai sempre, non c'è problema, questo è un negozio di vendo, compro e scambio. Però per la verità io questo apparato non l'avevo mai visto, non neanche che esisteva, che forma aveva, e oltretutto come poteva funzionare tutte le sue funzionalità. Dunque, ripeto, sono ignorante ancora in materia, sto imparando giorno per giorno. Dunque, non sapevo neanche che esisteva una roba del genere, ecco. Ecco, l'ho visto, mi è piaciuto, e sono andato a vedere quello, tutto lì. No, non è fatto un affare grande, non c'è problema, no, perché l'hai preso da Gianpaolo, perché so la provenienza di quella radio, quindi è una bella radio. È chiaro che hai fatto bene anche a portarlo, per fargli un check-up, un allineamento, una cosettina. È una radio nuova, molto bella, mi piace moltissimo il Galaxy FM, una radio che tratta sempre molto l'attenzione di tutti noi CB, uno perché è bella, grossa, stabile, eccetera, fa linea, va bene, è una bella radio, non c'è nessun problema, è sempre un baracchino, quello è il concetto delle cose, capito? Qualità-prezzo, io guardo sempre qualità-prezzo, no? Sono troppo pignolo, non lo so, però guardando qualità prezzo, andando a comprare un baracchino 300 euro, preferisco prendere una KF allo stesso prezzo. Se poi ho un baracchino come l'Ala 648 e voglio andare a giocarmi 200 euro in più perché me lo voglio modificare, me lo gioco, però devo sapere che ho sempre un baracchino. Quindi non è che ho buttato via i quattrini, mi sono tolto uno sfizio, però ho sempre un baracchino. Questo è il concetto della mia cosa. E poi così, ma vorrei mai andando, ripeto, c'è tanto di quello spazio in quell'apparato, che penso che lo conosci benissimo, meglio di me, perché alla fine dentro è vuoto, no? Diciamo, perché c'è un sacco di spazio. Quindi volendo uno si può sbizzarrire a dargli uno schiaffo morale con l'apparato, perché tutto lo spazio disponibile che vuoi per mettergli quello che vuoi, c'è una scheda eco, non va bene quella, le togli la sua, gliene metti un'altra, le puoi fare tutte le modifiche che vuoi anche a quello, sbaglio, diciamo dargli, cioè, un tocco di classe in più, correggimi se sbaglio. Non so, questa domanda devi fare a Luigi Vulcano, maestro delle schede colte, lui, non so se si possa mettere al Galaxy, credo di no comunque, credo, non lo so. Quelli modificabili sono alcuni baracchini che hanno un circuito all'interno a PLL, quindi quello io non so come sia fatto all'interno, sinceramente non l'ho mai aperto. Perché quello ti posso dire che lo spazio che ha quella radio è buono per fare una modifica che ho fatto io al Zodiac base, quello che hai visto tu base, è molto bella quella radio antica, la nuova, quella radio antica esce con 50 watt, infatti devo prenderla, quella e il Sears, portarla da Garvino, cognato di Massimiliano, e farmi mettere il connettore, perché c'è il connettore tipo il Tokai 5024, non so se tu conosci qui a Spinetta, e ogni volta che vado a volare mi esce il microfono, perché mi allungo molto, io parlo molto rilassato, ecco perché uso tutti i microfoni da tavolo, hai visto che microfoni da tavolo non ce n'è, tranne quello VHF e quello della 68, basta. Questi sono tutti i microfoni da tavolo, li hai visto, non ce ne sono quattro sulla prima base degli HF dove sono adesso e tre ce ne sono dall'altra parte con quello tramite il TRT3, tranne quello che ho dato Massimiliano, quindi erano quattro. 4 e 4 e quindi quelle sono modificabili nel Galaxy, ripeto, io l'unica modifica che ho fatto, come ho fatto a Zodiac, che all'interno ne ho messo un linearetto, un B50, che praticamente quando tu accendi la radio, siccome c'è l'alimentazione diretta dell'accensione della radio, quando tu l'accendi si accende anche lui, ma è modulare, c'hai 50 watt con una ventolina piccola, talmente piccola proprio sopra il dissipatore che poi non c'è neanche bisogno, e basta. All'altra che hai visto a fianco, quella invece gli ho messo l'interruttore dietro, se lo voglio attivare il linearetto lo attivo, quello era 30 watt, se non lo voglio attivare lo tengo spento, c'è proprio una levettina piccola che sembra tutto fatto alla casa, dietro la radio non si vede neanche. 15 in AM e da 0 a 22 in SSB, in laterali. Così dovrebbe uscire dalla fabbrica. Usando quello stesso potenziometro lì all'interno, nello spazietto che c'è, l'avrei fatto diventare da 0 a 50 watt, sia AM che FM che SSB. Senza toccare niente, nessuno vede niente all'interno. Prendendo l'alimentazione direttamente dalla radio, l'avrei fatto diventare a 50 watt, davvero a 50 watt. È una cosa facilissima da fare, come i bambini piccoli si mettono il dito in bocca per ciucciarselo, guarda, proprio per me è una grandissima crociata, proprio li ho fatto già un paio, infatti Massimiliano ha dato l'idea, anziché con lui se stare con i 4 watt che andate, 1,5 watt, fa la stessa cosa che ho fatto io, adesso se lo farà anche lui. Prende un legnamettino, un B50, che costa 25 euro, piccolino, glielo butti dentro, se lo alimenti con l'alimentazione stessa della radio e usi lo stesso potenziometro per salire e abbassare i watt. Se quello non ce l'hai, però grazie a te viene un bel lavoro, se quello non ce l'hai o lo metti diretto oppure ti metti un interruttore, accendi e spegni dietro la radio, che c'è un bel pannello in lamierino, fai un pochettino col trapanino, sai, quegli interruttorini piccolini o phone, no? In ferro piccolo, metti uno di quelli e lui è a posto. L'antenna, il ponte glielo fai già all'interno e tu usi il cavo dell'antenna della radio normale come se dentro non ci fosse niente, punto e basta. Una grandissima strozzata, bella, e tu c'è la radio con 50 watt. Ma sai cos'è? Ma l'alimentazione, che diciamo, siccome c'ha un trasformatore all'interno, no? Ma basterà per alimentare un lineare? Io ne ho uno piccolino, sicuramente lo conosci, si chiama la 1230 della Winder, non ce la fa alimentare il trasformatore che c'è all'interno, alimentare sia radio che lineare. La fa, ce la fa, ehi, ce la fa il Zodiac che va a 40 anni, c'è la radio, la fa di quello tuo. Quando lo ritiri con la radio, tu portala qua, ti faccio vedere, come abbiamo fatto l'antenna, facciamo anche quello. Dalla radio, no? Soprattutto lì il bello, siccome queste radio vanno a 220, allora cosa fai tu? Le metti assieme al linearetto un trasformatorino piccolino che costa 10 euro GBC, ma è talmente piccolo, meno di un pacchetto di sigarette, che ti trasforma la corrente da 12 a 220, al contrario, 220, 12, 12, 220, l'ho comprato io, glielo colleghi ai fili del coso, del trasformatore stesso che c'è all'interno della radio, e lui lavora con quel trasformatore prendendosi sui 5-6 ampere senza nessun problema, Antonè. È un bel lavoro, l'ho fatto io, guarda. Quando viene il nuovo qua ti faccio vedere il Zodiac, che te lo apro, ti faccio vedere che cosa c'è dentro con la radio. Appena mi fa le connessioni a 4, Gavino, che uso il TNP 3 con quella radio, che anche quello è quadrato, quello è un 23 canali quadrato come l'HV23, però c'è FM, c'è l'osmetro, vattimetro incorporato, c'è un modulatore, c'è tutto, quindi è più bellino a fare due chiacchiere, l'orologio, tutto illuminato, eccetera, è più bellino, sono più completo. Ti faccio vedere con 50 watt il TNP 3 come esce quella radio di 40 anni fa, quella c'ha 40 anni la radio, non c'ha due giorni, perché tu l'hai vista lucida, bella, quella c'ha 40 anni anche me. Vabbè, il giorno che lo ritiro, tu quando c'hai una maggiorata di tempo, te lo porto, te lo faccio vedere, vedi un po', vai, va bene, vediamo un po' cosa ne esce fuori. Ti porto sia l'apparato che il lineare, il centro di raffreddamento, io ho due, di computer, e poi vediamo cosa ne esce fuori. È un bel lavoro, va tranquillo. Sono tutte cose già sperimentate da me, alla grande. Perché c'è lo spazio per poterlo fare, capito? Non veicolare, devi per forza darle l'accoppiamento esterno e ciccia. dice che faceva QRT. Chi? Grotte? Grotte. Che ora sono? Le 9:20. Ma la verità, non so, penso 11:30 buone ci saranno. 11:30 buone, le 9:20 io. Ci andiamo a nanna, signori belli, che domani si trabatte, se no si canta lo bucco. Non ne ho sonno, ecco. Ci andiamo a nanna lo stesso, dai. Questo noi ci aggiorniamo domani, nel momento che hai tutto pronto, lavoriamo anche quello, non c'è problema. Non le dobbiamo chiedere niente a nessuno, sono tutte cose sperimentate che abbiamo fatto nel passato, giusto per avere qualche watt in più, però allora i lineareti quelli a 12 in borsa, 24 e 220 erano piccolini, io in uno ne ho messo uno, un B30, che non lo fanno neanche più, non è neanche della ZG, è della CTE. Però vedi, è piccolo, è fatto un pacchetto di sigarette, quindi lavora molto bene dentro, eccetera. Non ha né accensione né spegnimento, è diretto, tu come dai la pratica, lui si accende. C'è un relè piccolino, due finalini, però il finale che c'ha, che praticamente è un finalino piccolo, un prefinale e un finale, c'è una MOSFET. Sai cosa vuol dire avere un difettino così dentro una radio MOSFET? E puoi parlare tranquillamente, puoi dare il carico che vuoi, la radio non distorce mai, perché quei lineareti 747 sono quelli più richiesti, perché sono a MOSFET e si abbinano anche con 4 watt e 5 watt, lavorano bene, non distorgono la modulazione. Se tu usi uno di quelli della ZG, come sbagli a dare l'alimentazione, intanto si brucia. Come sbagli a dargli la potenza all'ingresso, si brucia l'ordinale e poi se non si brucia inizia a saturare. Non va bene, capito? Quelli invece a MOSFET della CTE, della Midland, quelli vanno benissimo, sono i più richiesti. Lo conosci questo, la 12:30 della Winner, ce l'hai presente? 12:30 della Winner, cos'è? Un lineare, dovrebbe uscire con 50 watt in AM. Così mi hanno detto quello che c'ho io, c'è scritto la 1230 SSB AM Winner, WINNER, accensione on-off e poi il pulsantino AM SSB. E adesso in questo momento ce l'ho acceso e sto usando quello. Adesso se faccio così ed è spento. Scusate, io vi saluto. E me ne vuoi nanna, vi saluta Panchetto, dai, ci aggiorniamo domani. Salutoni Claudio, salutoni Antonello, dai, ce la devi ascoltare volontari migliori. Ciao! Ciao Panchetto, ci sentiamo, stanno bene domani. Via, ciao Dio Panchetto, buonanotte, e dimmi domani chi vince. Via, pagato, ciao, buonanotte. Ciao. Ci sentiamo, non essere triste, mettiti tra piedi le orecchie e già dormi lo stesso. Sì, ha pagato. Non ti ripare quando c'hai delle manifestazioni qui sotto casa, che è già a mezzanotte, non si deve stare facendo lavorare, io ti insomma non è così gavati. Per carità di Dio, va bene. L.A. è un lineare, se non sbaglio, dove? Che ha fatto non la ZG ma la CTE, mi pare, un tempo passato. L.A. lo faceva anche la Brimi. Ma cos'è, nero o grigio? No, è tutto nero con le scritte rosse e gli interruttori rossi. Facciate dall'apparato. 50, quindi ho recuperato 25 kW. Siccome la potenza è regolabile, ok, io ho fatto un altro lavoro, perché avevo un linea elettrica a 50 W VHF, l'eccitazione è 5 W, e ho messo il potenziometro d'ingresso della stadio finale a 5 W, eccita quello lì a 5 W e ne escono 50, quindi ho recuperato 25. Sì, e poi alla fine diciamo per il lavoro che bisogna fare è semplicissimo, diciamo, dove c'è il potenziometro per fare power che serve per regolare l'uscita del watt del Galaxy, è semplicissimo anche fare il collegamento per far uscire, per regolare l'uscita insieme all'IR all'interno, dunque diciamo un'operazione, diciamo, quando c'è tutto il materiale a portata di mano, una mezz'ora di lavoro, cioè non è così tanto impegnativo. Sì, è vero. Stai scherzando, non lo credo, già lo credo. Sono tutte cosettine che si possono fare, basta avere il materiale giusto, le cose giuste e un po' di pazienza, perché non è che ci sia grande lavoro, però io l'ho tolto direttamente, quelli che ci sono all'interno della me, io li ho tolti direttamente dalla cassa, non ne hanno dissipatore. Quelle fai una, praticamente una pensierina in lamierino fine fine, gli appoggi la ventolina sopra, in modo che lui, non dissipando, la fredda all'interno. Capito? Non è che lo butti così, quanto casabuccia entro. No, devi togliere, devi lasciare solo la parte dove c'è il materiale che ti serve, le fai un lamierino fine fine e le attacchi la sua ventolina all'aspirazione. E lui lavora che è una cannonata, va tranquillo. Non ci stanno problemi. Comunque quando viene qua ti faccio vedere questi esperimenti che io ho già fatto in altre occasioni e vanno molto molto bene. Dai Antonè, anche io ti saluto, è mezzanotte. Non disturbo, ma c'ho sonno, sono stanco e me ne voglio andare a letto. Domani è una giornata X per me, X vuol dire che so come inizio ma non so come finisco, e quindi voglio essere riposato in tutto e per tutto. Beh, un abbraccio, saluto la signora, ci riascoltiamo domani, ci aggiorniamo domani, e se entra Antonio Globe salutano domani, poi approfondiamo il discorso con più tranquillità. Ok, ciao Antonio, buonanotte. E io vabbè, ti ringrazio della tua disponibilità, appena c'è l'apparato, il giorno che c'hai, diciamo, un'oretta libera, ti porto l'apparato, le due ventoline, il lineare, te la faccio vedere, il cavo con tutti gli spiruti, e poi vediamo cosa ne esce fuori, va bene, vediamo un po' cosa si può realizzare. Vabbè, ti ringrazio per il momento, ti auguro buonanotte e buon lavoro per domani. Perfetto, ci sentiamo domani allora, vai, buonanotte.